E in chiusura di puntata inauguriamo un nuovo appuntamento che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Qui accanto a me c'è Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buona estate a tutti. Sei tu il nostro appuntamento del giovedì. Ah, sono molto felice di esserlo. Perché abbiamo dedicato il giovedì alle nostre emozioni. Sì, io direi che ci prendiamo un po' cura di una dimensione che magari durante l'anno nel lavoro trascuriamo tantissimo, corri, vai, torni, si agisce tantissimo e invece ci si emoziona molto meno. Noi presidiamo un piccolo corso di educazione emotiva durante l'estate per i nostri ascoltatori, che siano in vacanza o che siano a casa. Questo è proprio l'appuntamento che fa bene alle vostre emozioni. Emozioni da mettere in valigia per chi invece non parte, da tenere in borsetta. O sul comodino di fianco al letto, perché ogni appuntamento in realtà userà proprio le arti, cioè la musica, il cinema e la letteratura, per farvi fare un percorso emozionale. Emozioni terapia. Ma sì, chiamiamola così. Ti piace? Mi piace molto e direi che io ho selezionato insieme a te i tre ingredienti del percorso emozionale di quest'oggi. Partiamo da quello musicale. Ci introduce all'emozione che sarà protagonista del nostro appuntamento del giovedì, di questo giovedì, ne seguiranno altri. Sì, direi che il tema che abbiamo scelto oggi è quello della sospensione, stare in un territorio che è un po' definito, che è poi un po' anche il tempo delle vacanze, quando tu entri in quello spazio lì dove ogni giorno puoi inventarti qualcosa di nuovo, in qualche modo cambi completamente il copione, stai sospeso e vai alla ricerca di qualcos'altro. Questo disco si intitola All Fall Down e l'autrice, la cantante, è una cantautrice in realtà, quindi ha tutte e due le caratteristiche, è Sean Colvin. È un disco un po' rarefatto, molto molto sospeso nei suoni, nelle parole. Questa canzone è Knowing What I Know Now, e fondamentalmente cosa sarebbe la vita se io potessi viverla sapendo tutto quello che c'è stato prima. Ma che cosa sarebbe del mio amore se io avessi saputo da subito che cosa tu saresti stato per me? Che cosa sarebbe stato di me se io avessi saputo quello che mi sarebbe successo? In realtà è proprio un disco pieno di riflessione, ha molto a che fare con la perdita, non intesa però come qualcosa che ti distrugge, ma in realtà come un passaggio successivo. Si lascia alle spalle qualcosa, ci ha trasformato quel qualcosa che ci lasciamo alle spalle, si entra in un nuovo territorio. E a proposito di entrare in un nuovo territorio, entriamo in un'altra traccia, facciamo un passo avanti con un breve insert di un film. Professore, buonasera, sono la madre di Roberto. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei si dovrebbe vergognare, comunque mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione di storie di ieri? Ho fatto sega, mi sono sciallata a Villa Panfili. Pischelle? Sarà presa le pischelle e poi da froci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirglielo. Che cosa? Che sono suo padre? Sei impazzita? Mi direbbe a morte. Ma tu guarda sto stronzo! No, ripeti quello che hai detto. Ha detto stronzo, no, ti dico pure io. Non ho un po' del pecco, Quando te pare, ti do pure un indirizzo, vieni senza patente, stronzo! Quello è il mio indirizzo. Se Luca continua così, verrà bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi tant'è inutile, perché a 16 anni smette di studiare, quindi. Ma cosa fai? Il militare, lo spassino, il cameriere. Scialla, un film che tu ami molto, quello di oggi, Alberto, perché ha il papà, un papà come protagonista. Ma a proposito di sospenso, non lasciarci sospesi e cerca di farci capire che cosa aggiunge questo film alla nostra puntata di oggi. Guardate, è un film che vi farà molto sorridere, molto riflettere, molto emozionare. È la storia di un uomo, Bruno Beltrame, che vive sospeso in una vita che è una non vita. Fondamentalmente tutto quello che poteva scegliere se l'è lasciato alle spalle ed è entrato in un percorso fatto di routine, in un limbo proprio, dove però improvvisamente compare sulla scena un figlio che lui non sapeva di avere e che non sa che è suo figlio, e questo incontro, come tutti gli incontri importanti della vita, gli cambierà per sempre il suo modo di stare al mondo, non più sospeso, ma finalmente aggrappato a qualcosa per cui vale veramente la pena stare al mondo. E noi continuiamo la nostra esplorazione, abbiamo già due tracce su cui ragionare, il CD, il brano musicale, l'esperienza e il racconto del film Scialla, ma adesso una lettura. Ti seguirei se dovessi tornare alla tua caserma. Ti aspetterei a casa, sospirando come una moglie, se partissi per una missione. Ti seguirei anche in missione, se un medico civile potesse seguire un esercito. Ti accetterei se non volessi separarti dalla tua divisa, e se invece non dovessi più fare il soldato. Ti seguirei ovunque volessi vivere, perfino in Afghanistan o in capo al mondo. Non ho fatto niente di speciale, come dici sempre anche tu. Qualcuno ha detto che essere ordinari è l'essenza stessa della virtù. Tu diresti che ho fatto solo il mio dovere, ma io non so bene cosa significhi questa parola. L'unico dovere che riconosco è quello di essere umano, cioè fedele alla mia natura, a ciò che mi differenzia da un gatto, da un uccello, da un fucile e da un assassino. Quello che ho fatto, però, mi ha restituito me stesso e mi ha reso l'uomo che sono. E Mattia Rubino non è indegno di Manuela Paris. La tua stanza buia mi inquieta. Sono come te. Non mi piace aspettare. Non ho pazienza. Mi affaccio al balcone e la mia ombra si disegna sulla balaustra. È una vista che mi rincuora. Sei tu la mia ombra. Sono la tua immagine riflessa. È un estratto da Limbo di Melania Mazzucco, che è in linea con noi. Melania, ciao, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Melania, devo dire che il tuo libro è perfettamente raccontato e rappresentato dal suo titolo. Nei tuoi due protagonisti, Melania viene rappresentata quel senso di sospensione, stordimento, confusione di cui ci vogliamo occupare oggi, ed è un'emozione che spesso si avverte in vacanza. Per certi tratti piacevole, ne stavamo parlando con Alberto. Sì, io direi proprio entrare in una zona della vita che è una zona di indefinitezza, una zona che a volte ti spaventa, una zona dove ti sembra di non essere, improvvisamente però quella diventa una straordinaria opportunità. I due personaggi di Melania sono proprio due personaggi indimenticabili, vivono in un limbo, ma chiediamo all'autrice come è entrata in questa storia e come sono nati i suoi Manuela e Mattia? Manuela è nata tanti anni fa, quando in realtà si è creata la possibilità per una donna di praticare un mestiere vivile come quello delle armi. Fin da allora mi sono interessata, incuriosita all'idea di raccontare una donna che sceglie questa vita, che tutti le rinfacciano essere il contrario della natura delle donne, no? Perché fare la guerra o portare le armi sembra essere contrario alla biologia della donna nata per portare la vita. E proprio su questo equivoco, su questa complessità e ambiguità mi piaceva riflettere, lavorare. In fondo ho sempre scritto storie di donne che si confrontano con la loro identità, cosa vuol dire essere una donna. E quindi io da allora ho desiderato scrivere la storia di una donna soldato e poi di una donna militare. In particolare, però, in realtà in questo libro volevo raccontare appunto lo spaesamento del ritorno. Manuela torna dall'Afghanistan ferita e sospesa in un'attesa, perché non sa se potrà mai più essere la donna che è stata e il soldato che è stata. E credo che mi interessasse raccontare questa fase di passaggio in cui non si è più qualcosa e non si è ancora qualcosa di nuovo. Perché in fondo il caso di Manuela è molto estremo, ovviamente, però tutti noi credo che in una vita affrontiamo dei limbi di questo tipo, no? In cui qualcosa è finito, qualcosa deve nascere, e c'è un momento in cui nulla di tutto questo è ancora accaduto e siamo lì fermi, sospesi. Da Manuela a Melania, te capita di sentirti sospesa e confusa in un limbo proprio come i tuoi personaggi? Cosa ti provoca e cosa ti aiuta a venirne fuori, se è necessario venirne fuori? Beh, comincio ad avere parecchi limbi alle mie spalle, nel senso che ci sono dei momenti in cui ti accorgi che qualcosa è finito. E può essere anche qualcosa che appartiene profondamente alla tua identità, al tuo modo di essere, no? Che però non c'è più. E allora è una morte, è una perdita, è un lutto, può essere appunto qualcosa che nasce dalla morte di qualcuno effettivamente, oppure da una morte di qualcosa, di una parte di noi stessi. E quindi c'è sicuramente una fase di dolore, di depressione, di così, in cui sembra di non riuscire a immaginare un futuro e a immaginarsi diversi da come siamo. Però devo dire che tutte queste fasi in realtà per me sono sempre state motivo di crescita, di cambiamento. Non ho paura tutto sommato del cambiamento, anzi con il tempo l'ho sentito sempre qualcosa di necessario e vitale. Sì, sì, sì. E quindi volevo raccontare una storia in cui due personaggi, perché anche Mattia è sospeso fra una vita e l'altra, e però non è un libro che parla del passato, ma di come si può andare invece incontro al proprio nuovo futuro. Grazie a Melania Mazzucco, ricordiamo il titolo del suo libro, Limbo. Grazie ad Alberto Pellai che ci ha accompagnato nella nostra prima puntata della Valigia delle Emozioni, valigia, borsette, tasca, comodino. Parleremo di emozioni il prossimo giovedì, quindi Alberto ti aspettiamo. Un saluto a voi, noi ci sentiamo domani.